Giro di Re. Fiabe e leggende della tradizione popolare italiana. Ciao, io sono Maurizio Mosetti e questo è Giro di Re. Fiabe e leggende della tradizione popolare italiana, senza destinazione di età. Sì, perché nell'Ottocento, quella che oggi noi siamo abituati a considerare letteratura per l'infanzia, non aveva una destinazione d'età. Era un racconto di meraviglie, una piena espressione dei bisogni poetici. Si tratta di fiabe e leggende della tradizione popolare italiana. Racconti di giovani immortali, zappatori musicisti, barbieri, orologiai, figlie da maritare, re, principi, bambini, ragni e sarcicce. Sono storie di ieri, di oggi e per sempre. Buon ascolto. Giovannino senza paura. C'era una volta un ragazzetto chiamato Giovannino senza paura, perché non aveva paura di niente. Girava per il mondo e capitò a una locanda a chiedere alloggio. «Qui posto non ce n'è», disse il padrone. «Ma se non hai paura, ti mando in un palazzo». «E perché dovrei aver paura?» «Perché ci si sente e nessuno ne è potuto uscire altro che morto. La mattina ci va la compagnia con la bara a prendere chi ha avuto il coraggio di passarci la notte». Figuratevi Giovannino, si portò un lume, una bottiglia e una salsiccia e andò. A mezzanotte mangiava seduto a tavola, quando dalla cappa del camino sentì una voce. «Butto!» E Giovannino rispose: «E butta!» Dal camino cascò giù una gamba d'uomo. Giovannino beve un bicchier di vino. Poi la voce disse ancora: «Butto!» E Giovannino: «E butta!» E venne giù un'altra gamba. Giovannino addentò la salsiccia. «Butto!» E butta! E viene giù un braccio. Giovannino si mise a fischiettare. «Butto!» E butta! Un altro braccio. «Butto!» «Butta!» E cascò un busto che si riappiccicò alle gambe e alle braccia e restò un uomo in piedi senza testa. «Butto!» «Butta!» Cascò la testa e saltò in cima al busto. Era un omone gigantesco e Giovannino alzò il bicchiere e disse: «Alla salute!» L'omone disse: «Piglia il lume e vieni!» Giovannino prese il lume, ma non si mosse. «Passa avanti!» disse Giovannino. «Tu!» disse l'uomo. «Tu!» disse Giovannino. Allora l'uomo passò lui e una stanza dopo l'altra traversò il palazzo, con Giovannino dietro che faceva lume. In un sottoscala c'era una porticina. «Apri!» disse l'uomo a Giovannino. E Giovannino: «Apri tu!» E l'uomo aperse con una spallata. C'era una scaletta a chiocciola. «Scendi!» disse l'uomo. «Scendi prima tu!» disse Giovannino. Scesero in un sotterraneo e l'uomo indicò una lastra in terra. «Alzala!» «Alzala tu!» disse Giovannino. E l'uomo la sollevò come fosse stata una pietruzza. Sotto c'erano tre marmitte d'oro. «Portale su!» disse l'uomo. «Portale su tu!» disse Giovannino. E l'uomo se le portò su una per volta. Quando furono di nuovo nella sala del camino, l'uomo disse: «Giovannino, l'incanto è rotto!» Gli si staccò una gamba e scalciò via su per il camino. «Di queste marmitte, una per te!» E gli si staccò un braccio e si arrampicò per il camino. «Un'altra è per la compagnia che ti verrà prendere credendoti morto!» E gli si staccò anche l'altro braccio e inseguì il primo. La terza è per il primo povero che passa. Gli si staccò l'altra gamba e rimase seduto per terra. Il palazzo tienilo pure tu. Egli si staccò il busto e rimase solo la testa posata in terra. Perché dei padroni di questo palazzo è perduta per sempre ormai la stirpe. E la testa si sollevò e salì su su per la cappa del camino. Appena schiarì il cielo, si sentì un canto. Miserere mei! Miserere mei! Era la compagnia con la bara che veniva a prendere Giovannino morto. E lo vedo dalla finestra che fumava la pipa. Giovannino, senza paura, con quelle monete d'oro fu ricco e abitò felice nel palazzo. Finché un giorno non gli successe che, voltandosi, vide la sua ombra e se ne spaventò tanto che morì. Giro di Re. Fiabe e leggende della tradizione popolare italiana.